titolo di questa composizione di Luigi Nono è ricavato dal titolo, contrappunto bestiale alla mente, di uno dei madrigali che compongono l'opera Festino nella sera del giovedì grasso avanti cena di Adriano Banchieri, del 1608. Più che per le composizioni di carattere sacro, Adriano Banchieri è considerato oggi per le sue opere di argomento profano, farse rusticali, commedie, madrigali drammatici, i cui titoli ci indicano immediatamente le caratteristiche di estro e spregiudicatezza: la pazzia senile, la saviezza giovanile, il zabaglione musicale. Per comprendere il significato del riferimento di Nono potrà essere utile ascoltare anche soltanto il testo di alcuni madrigali del Banchieri che fanno parte del sopracitato festino. Contrappunto bestiale alla mente. Un cane, un cucco, un gatto e un chiù per spasso far contrappunto a mente sopra un basso. Chiù ovvero civetta. Fa la la la, cucco. Fa la la la, gatto. Fa la, fa la, cane. Fa la la la, cucco. Cucu, cucu. Chiù, ovvero civetta. Chiù, chiù, gatto. Miau, miau, cane. Babau, babau. Base al contrappunto. Nulla fides gobbis, similiter est zoppis, si squerzus bonus est, super annaglia scrive. Tutti fa la la la. Sproposito di goffi, però di gusto. O che pazzi babbioni, o che cervelli, che ora è questa, vender solfanelli? Strass, strass, strass es avot, solfanei. Don solfanei, don solfanei, solfanei, solfanei, solfanei, don. Nufem barat in lesavat, in vidrirot, in fonte bot. Se voleai, pane formai. E chi voles comprar con i quattri, gne darem tri mas per un sesi. Nufem barat in lesavat, in vidrirot, in fonte bot. Se voleai, pane formai. E chi vuole comprar con i quattri, che ne dare entri mas per un sesì. Strass, strass, strass es avot. Solfanei, don solfanei. Don solfanei, solfanei. Solfanei, don. Notiamo l'uso che Banchieri fa delle onomatopee, di frammenti della conversazione popolare, delle caratteristiche grida dei venditori ambulanti. Allo stesso modo Nono ha impiegato nella sua opera materiale sonoro ricavato dalla vita attuale, dall'ambiente fisico che ci circonda. Le grida del mercato di pesce e verdura del Ponte di Rialto, il suolo della Marangona dal campanile di San Marco, il rumore dell'acqua e dei traghetti di Venezia. Attraverso questo parallelo possiamo comprendere che il rifarsi al Banchieri non è per Nono un'operazione neoclassica di tipo stravinskiano, né, come nel caso di alcuni musicisti, la ripresa dei motivi di Beethoven o di Scarlatti, ad esempio, usati come stilemi nell'utilizzazione degli inni nazionali da parte di Stockhausen per raggiungere effetti di pastiche stilistico. Il punto di partenza del contrappunto dialettico alla mente è invece la ricerca del rapporto con il tipo di operazione musicale compiuta dal Banchieri. Il particolare uso della voce, l'emissione del materiale sonoro del tempo, lo stravolgimento umoristico e parodistico che si innestano nel particolare momento lirico che, secondo le regole del madrigalismo cinquecentesco, domina ogni sezione. Anche i titoli di ciascuna delle quattro parti in cui si articola la composizione di Nono rinviano titoli di madrigali del Banchieri. Per la prima parte, il diletto moderno diventa il diletto delitto moderno. Il testo consiste in pochi versi di una poetessa negra sulla morte di Malcolm X. Questo uomo, questo sognatore dalle labbra spesse di parole, non parlerà più. Ogni inverno, quando l'aria gelata punge come ghiaccio, io respirerò il suo fiato, alzerò il lamento funebre nelle notti piene di fucili. In questa parte, come nelle seguenti, il materiale di base, sia quello di suoni e rumori registrati che quello verbale, recitato o cantato da cinque voci femminili, subisce una successiva elaborazione elettronica che lo porta ad assumere altri diversi significati rispetto alla semanticità originale. La seconda parte è composta dalla mascherata di vecchietti ad intermedio di venditori di soffio, su un mio testo, di cui diamo un breve esempio e che successivamente viene totalmente scomposto in una sillabazione innaturale e vorticosa. Dei polmoni lo stesso della voce, ad esempio, frequenze determinate esercitata riescono, rimangono aperte, dobbiamo sempre tener, fa oscillare le corde e quelle persone che, negli uomini la massa, le voci variano, movimenti diversi nella velocità grandemente, processo che abbiamo, d'aria breve e rapido, le corde si avvicinano alla bocca, sono e di un complesso, forma l'inizio rapido. Nella terza parte i cervellini cantano un madrigale, le voci si rincorrono sulle sillabe spezzate del titolo stesso, a formare una sorta di madrigale elettronico. Qui, come altrove, sono utilizzati anche frammenti di registrazione eseguite durante le prove, risa, brani di conversazione fra gli esecutori, rumori. Per la quarta parte, il titolo biancheriano La zia Bernardina racconta una novella diventa Lo zio Sam racconta una novella. Il testo è quello del proclama di un'associazione di donne negre contro la guerra nel Vietnam imposta ai soldati negri. In quest'ultima parte la parola raggiunge un grado di completa comprensione insieme al massimo della sua violenza espressiva. Il discorso ideologico dell'opera si manifesta così direttamente, dopo aver acquistato il suo significato dialettico nelle precedenti elaborazioni a livello di materiale verbale. Cosa succede? Succede che Max Macchia, 451 frammenti sonori, dedica una puntata. Mi sembrava, insomma, quantomeno non doveroso, perché insomma qua di doveri ce ne sono pochi, soprattutto per Nanni Balestrini, che non aveva bisogno di certo di 451. O anche di altri, insomma, che in maniera così piuttosto, come dire, dilettantistica si occupano di avanguardia. Non che la professione di per quanto riguarda Balestrini fosse ambita, non si definiva neanche poeta, ma di fatto, insomma, le capacità e la grande capacità veramente enorme, gigantesca di Nanni Balestrini fu quella di far politica con l'arte, di fare con l'arte la politica e fondamentalmente di vivere quella esperienza non come appunto professionale, quindi staccata, oppure dilettantistica appunto in termini di diletto, ma qualcosa che evidentemente arrivava a essere militante, ma militante in termini anche proprio strettamente umani, se vogliamo, e quindi da non scindere appunto e da creare una dialettica feroce tante volte tra dialettica, e sottolineiamo dialettica, sottolineiamo Marx, sottolineiamo Hegel, perché insomma con Balestrini ci vuole un certo Hegel ovviamente ribaltato da Marx e un certo Marx che veniva ribaltato ulteriormente dalle forme di neoavanguardia che riprendevano tanto dalle esplosioni poetiche, artistiche delle avanguardie storiche, partendo, insomma, si può partire tranquillamente dal 1909 qua in Italia, dal futurismo, che è complessa come faccenda, ma insomma la deriva poi marinettiana del fascismo, visto che insomma in questi giorni bene essere molto chiari, poi fu fondamentalmente formalmente celebratoria, ecco, come scrive bene il Crispolti, ma non solo, come scrive anche, come scriveva Calvesi, che insomma aveva a che fare anche qualcosa con Nanni Balestrini, la faccenda è decisamente più complessa se pensiamo appunto alla disfatta di un futurismo italiano, appunto, che deriva poi appunto e va verso forme appunto non più avanguardistiche, e seppur anche lì ci sono dei cappelli poi messi verso gruppi che si sposteranno poi invece verso invece posizioni rivoluzionarie, distruttivisti, eccetera eccetera, ma senza andare adesso a trovare particolarità che riguardano relativamente questa serata, anche se poi insomma Balestrini, come buona parte dell'avanguardia, prenderà da alcune anche rivoli, se vogliamo rivoluzionari, appunto comunisti, marxisti, appunto dei futuristi, soprattutto quelli torinesi. Ma ad esempio citerà immediatamente Balestrini stesso, lo stesso Palazzeschi, appunto del periodo futurista, e Calvesi, insomma, comunque facendo una lettura dialettica anch'essa molto feroce, parlerà insomma delle due avanguardie, in questo caso dell'avanguardia appunto futurista italiana e di quella dell'avanguardia futurista russa, come debacle, come fallimento di un progetto appunto che vedeva appunto una società rivoluzionata. Tale non fu, uno finì come finito Marinetti, e l'altro insomma si sparò, per dire più grossi, insomma, e si sparò insomma in bocca durante il periodo staliniano. E Balestrini, insieme al gruppo 63, prende appunto spunto non soltanto ovviamente dai futuristi, prende spunto dai surrealisti per molte cose, ma soprattutto c'è questa possibilità che viene poi vissuta, ovvero la parola che esplode e va fuori dal libro, quindi una parola che si fa poesia sonora, poesia visiva, parole poi che, categorie che artistiche che non amava particolarmente Balestrini, che però insomma ci indirizzano rispetto appunto a questa fuoriuscita, perlomeno a questo altrove, questo oltre che la parola di Balestrini, appunto, già partendo dal 1961, addirittura già nel 62 con quello che oggi chiamiamo computer, che all'epoca invece era il calcolatore elettronico, appunto quelle stanzoni che poi sono diventati piccoli personali, appunto computer, PC appunto, e invece con Balestrini nel 62, Mark Tape, addirittura si sviluppa una poesia tecnologica, ma non per, poi l'abbiamo anche sentito proprio spiegando le operazioni compiute da Nono, che tra l'altro avremo modo di continuare a sentire ancora per un po'. Non sono operazioni di pastiche come lo sono nella postmodernità, oppure la citazione ad esempio era quella di Stockhausen, l'utilizzo del pastiche pop per dare insomma sviluppi compositivi, nulla di come dire di male assoluto, anzi sono anche sono state fatte ottime cose, se pensiamo a Telemusic ad esempio, miscelando i vari inni delle varie nazionalità, però appunto in questo caso invece è proprio il suono, abbiamo il suono e la sperimentazione sul suono parola, quindi quel particolare appunto fonema che fa trasforma di fatto poi la parola in qualcos'altro a livello concettuale, crea un'emozione, se vogliamo, psicologica, ma anche psichica, proprio nel senso anche proprio poi del creare poi forme anche, se vogliamo, di cortocircuito, come tante volte, o di blackout, come altro testo storico di Balestrini, e quindi veramente possibilità date da appunto l'utilizzo della parola suono e della trasformazione appunto anche proprio semantica di questo, quindi del significato, lo spostamento di questo, ogni parola si porta dietro un significato per Balestrini, ma non solo per lui, e questo appunto può essere però trasformato, quindi non è tanto il significato quello della saggistica, quello dell'essere più chiari, diciamo più propensi a ricercare appunto un significato diretto, ma la possibilità appunto di fare deragliare questo significato, quindi di creare un altro significato. Questo è un concetto decisamente politico. Date ai compagni una nuova arte, e l'abbiamo tra l'altro anche messo appunto come riferimento iconico di questa sera di 451, appunto per Nanni Balestrini. Andando a sentire, abbiamo sentito un estratto della trasmissione Rai, tra l'altro gioco di specchi, che comunque dentro un lavoro di Luigi Nono, Complete Work for Tape, trasmissione del novembre del 1968, dove appunto Balestrini, che è anche autore tra l'altro di alcuni testi, potremmo dire di parole, suono, e poi appunto spiegava direttamente tramite appunto i microfoni della Radio Nazionale dell'epoca che cos'era appunto, qual era l'operazione che compiva Nono appunto trattando il suono, parola in un certo qual modo appunto, trattandolo in maniera anch'essa piuttosto esplosiva. In effetti poi i paralleli tra appunto neoavanguardia letteraria e musicale, ma di fatto insomma è anche qua appunto una non distinzione, una rottura anch'essa, ma nel senso appunto di una proposizione molto forte, rivoltosa quantomeno, appunto quella di andare oltre questi appunto anche categorie che appunto sono poi tante volte non soltanto categorie merceologiche, ma anche proprio categorie generali che Balestrini faceva saltare veramente in aria, e quindi un po' con un parallelo che ci porta invece un personaggio staccato da tanti, come Carmelo Bene, sul discorso della fonè, e quindi la potenza appunto del suono, del suono parola. E continuando ad ascoltare quello che appunto il lavoro computer appunto dialettico della mente, nella mente anzi di Luigi Nono, con appunto la collaborazione di Balestrini sul suono parola, andiamo a trovare invece quello che proprio è il lavoro in studio, non commentato in questo caso, non accompagnato da Balestrini direttamente, ma scritto proprio tramite appunto un processo anche particolare di composizione e di interazione appunto tra i due grandi appunto autori della neoavanguardia in generale. Chi li nas del cu si ar li e lan si i es se gum sin ai i e lan si vi nes hel gum sin ai i e lan si si vi nes hel hel gum sin ai i lan si si vi nes hel hel gum sin ai i lan si si vi nes hel hel gum sin ai i lan si si vi nes hel hel gum sin ai i lan si si vi nes hel hel gum sin ai i lan si si vi nes hel hel gum sin ai i lan si si vi nes hel hel gum sin ai i lan si si vi nes hel hel gum sin ai i lan si si vi nes hel hel gum sin ai i lan si si vi nes hel hel gum sin ai i lan si si vi nes hel hel gum sin ai i lan si si vi nes hel hel gum sin ai i lan si si vi nes hel hel gum sin ai i lan si si vi nes hel hel gum sin ai i lan si si vi nes hel hel gum sin ai i lan si si vi nes hel hel gum sin ai i lan si si vi nes hel hel gum sin ai i lan si si vi nes hel hel gum sin ai i lan si si vi nes hel hel gum sin ai i lan si si vi nes hel hel gum sin ai i lan si si vi nes hel hel gum sin ai i lan si si vi nes hel hel gum sin Sì, tutti dall'altra parte. Thank you. Una novella, Luigi Nono, Complete Work for Tape, che appunto prevede e riporta insomma a compimento appunto i lavori di Nono sulla, appunto sull'elettronica, in questo caso legata alle tape, quindi qua un trattamento anche elettronico, se vogliamo, del suono parola, ma anche tanto della sillabazione e della onomatopea, quando insomma prima accennavo ai futuristi, l'onomatopea insomma è qualcosa di centrale rispetto appunto alla ricerca futurista e rispetto poi alla ricerca che sarà compiuta soprattutto da un certo Balestrini del primo periodo, poi Balestrini facendo anche composizioni, prima non ho finito di dire, insomma, concitato anche, insomma, preso dall'emozione poi del fatto insomma che sia scomparso un maestro, un cattivo maestro, visto che ha avuto anche qualche problemino qualche anno fa, data che dovrebbe essere il 7 aprile nel famoso processo autonomia operaia. Quindi insomma direttamente implicato dentro quello che fu anche un momento storico di fatto insomma come dire di ora di censurato e assolutamente insomma e non che non può aprire insomma anche una semplice riflessione, se vogliamo, proprio anche semplicemente artistica. In questi giorni leggere le cose su Balestrini è veramente disarmante, su quanto non si vada proprio dentro il suo lavoro e che si voglia poi confinare poi appunto al professionista artista, al poeta, molto insomma ridicola come faccenda, che appunto ha portato fino in fondo Balestrini, fino agli ultimi anni, se provate anche appunto a vedere, a recuperare le ultime opere, tra l'altro una dozzina d'anni fa, non è proprio ieri, però insomma neanche tanto tempo fa, pensiamo insomma che le prime composizioni sono del 1961, quindi insomma addirittura, anzi prima, un'antologia di Riva Prodi fa partire addirittura dal 58 le prime poesie sperimentali di Dani Balestrini, e quindi insomma stiamo parlando di insomma, oltre 60 anni fa, e appunto 12 anni fa proprio in Sala Borsa a Bologna insomma venne a portare un lavoro decisamente sperimentale, decisamente coinvolgente, come Balestrini sapeva fare, perché appunto poi un'altra delle grandi capacità di Balestrini era proprio una sorta di militanza poetica che diventava poi di fatto partecipazione, quantomeno, ma addirittura proprio anche sprono poi a quello che invece proprio a un viversi direttamente la proposizione, potremmo dire, poetica, ma poetica veramente in termini generali, se vogliamo anche ideologica, che però non ha mai preso la via del semplice e poi di quello che insomma è stata anche per tanti aspetti così una via molto facilitata e molto, tra l'altro, battuta, quella appunto di un comunismo molto, molto semplificato, e quasi da Bignamino, appunto, da partito, ecco, ma appunto una via molto più avventurosa, se vogliamo, ma non per il gusto dell'avventura fino a se stesso, ma perché di fatto necessitava di quel momento e quella forma diversa, quella andare oltre, e quello sperimentare di fatto, e quindi poi durata, anche perché proprio interna proprio al suo appunto alla sua poetica forte, quasi appunto strutturale, potremmo dire, tant'è che appunto è arrivato alla fine dei suoi giorni proprio continuando a sperimentare, ma non appunto perché sperimentare può essere anche una categoria, ma proprio per un fatto appunto quasi dato da un dato strutturale, per insomma rubare un termine decisamente marxista. E cosa fa Balestrini, tra l'altro, appunto in termini tecnologici? Non utilizza il computer per comporre direttamente, per diciamo trovare quell'effetto elettronico, tecnologico di quello che appunto era il laboratore dell'epoca. Fa un'altra operazione, che è quella della combinazione, una combinazione casuale delle parole, dandogli dei parametri, e quindi combinando poi di fatto nuove forme poetiche, mark tape, proprio dandogli anche proprio una forma di vita, se vogliamo, proprio se pensiamo, insomma, a un paragone fatto da lui, quello della nostra esistenza, del nostro DNA, insomma, potremmo essere tutti simili, ecco, invece siamo tutti differenti, anche proprio per quel minimo, no? E quindi questa cosa del usare la tecnologia, dell'usare in maniera con una composizione casuale, potremmo dire, utilizzando l'alea, in questo caso quindi anche il gioco, crea proprio una forma quasi esistenziale, se vogliamo, nel senso di vitale, appunto di composizione, una composizione che tra l'altro si apre appunto a innumerevoli composizioni, visto che poi il progetto è stato portato avanti, è stato anche ripreso e può essere appunto implementato, e sentiremo anche una piccola porzione di un'implementazione legata a Balestrini, su improvvisazione appunto di composizione e appunto di incastro, se vogliamo, appunto tra appunto parole e tra quei concetti, appunto, emozioni che appunto accennavo prima. Abbiamo sentito anche, oltre a Nonno, anche per un attimo Stratos, Demetrio Stratos, lo andiamo a sentire da un storico lavoro proprio con Nanni Balestrini, 1001, disco straordinario per capacità di creare appunto con il suono, con l'onomatopea, ma anche proprio con quasi appunto la vocalità stretta, e che appunto partendo da un suono appunto vocale puoi creare un mondo sonoro, una trasformazione sonora veramente eccezionale, tramite ovviamente la voce la voce cantata di Demetrio Stratos, citandolo appunto in un altro lavoro, e appunto dando al suono vocalico veramente delle possibilità assolutamente inaudite. Salata, la saliva, saltandola, sanguida, sanguinosa, saturata, saziare, scaldandole, scambiandosi, scendela, schiusele, schiuma, sciogliere, scivola dentro, scivola via, scivolosa, scoprire, segnandola, sei entrata, sempre meno, sempre più sensibile, sentendola, sentendosi, sentele, senza forza, senza le, separandole. Se ti fa male, se ti muovi, se respiri, seta, sete, finendo sfiorare, sgusciando, mi appoggio sul, mi apre, si arresta, si schiude, si contrae, si curva, si gira, silenziose, si riempie, si schiude, slacciata, slargando, smarrita, smuove, sobbalza, sognando, soggiaci, soletica, sollevandola, solo con, solo nel, soltanto, sommessa, sommersa, sospesa al, sospinta, sospirando, sospiri sottile, sotto il peso, sotto le mani, sotto vibrando, spaccata, spalle in, spasimare, spingendo, spinta verso, sporgendo la spossata, spremendo, staccatasi, stanca, standoci dentro, stando ferma, ferma, strappandola, stremma, stretta, sta stringendo, strisciare, strizzando. Successiva? Succhiando. Sudate sugli occhi, sulla pelle, sul ventre, supina, svanire, svegliandosi. Sveltanel, svestita, svuotala. Sai di salata, saliva, saltandola, sangue da sanguinosa, saturata, saziare, scaldandole, scambiandosi. Scendela, schiusele, schiuma, sciogliere, scivola dentro, scivola via, scivolosa, scoprire, segnandola. Sei entrata, sempre meno, sempre più, sensibile, sentendola, sentendosi, sentele senza forza. Senza le, separandole. Se ti fa male, se ti muovi, spiri seta, desfinendosi, fiorare, sgusciando, ti appoggia sul, si apre, si arresta, si schiude, si contrae, si curva, si gira, silenziose, si riempie, si schiude, slacciata, slargando, smarrita, smuove, sobbalza, soffice, sognando, soggiaci, solletica, sollevandola, solo con, solo nel, soltanto, sommessa, sommersa, sospesa, al sospinta, sospirando, sospiri, sotto il peso, sotto le mani, sotto, vibrando, spaccata, spalle in, spasimare, spingendo, spinta verso, sporgendo la spossata, spremendo, staccata, si stanca, standoci dentro, standoci ferma, strappandola, stremata, stretta, stringendo, strisciare, strizzando, successiva, su, incando, sudate sugli occhi, sulla pelle, sul ventre, supina, svanire, svegliandosi, sveltana, svestita, svuotala. Volando sempre tornando su Stratus, però appunto stratificandolo con un'altra collaborazione, il testo per Volando Via per da The Condor, eseguito dalla Steve Lacy Sextet dalla fine degli anni 70 alla metà degli anni 80. Beh, anche qua il lavoro che riesce diciamo più a giocare su quello che è appunto una sorta di funambolismo anche che c'è dentro, cioè, dentro Balestrini, forse anche in questo senso il richiamo a Palazzeschi e quindi appunto quasi farsi uomo di fumo, mi verrebbe dire, da questo Volando Via, chissà magari se non ha pensato proprio al codice di Perelà, narrazione storica futurista appunto di Aldo Palazzeschi, che bisognerebbe insomma recuperare anche decisamente, anche perché è molto appunto funambolica come cosa, magari fa anche ridere, ma la risata insomma di quelle che possono anche diventare pericolose appunto, quindi ulteriormente insomma, e quindi auspicabile ristampa del codice di Perelà, o comunque la ricerca appunto dello storico libro dell'uomo appunto che volava via, l'uomo di fumo. E in questo caso appunto Balestrini si fa così giocoliere, potremmo dire, appunto delle parole del concetto appunto del volar via, del portarsi via, del portarsi oltre, del non essere lì perché spinto appunto a volare, magari anche appunto in un sogno appunto di in una utopia vissuta, e appunto in questo caso musicata da un altro insomma, che di avventure musicali ne aveva avute tante, e insomma fino agli ultimi giorni ne avrebbe percorse altrettante Steve Lacy, probabilmente anche così incrociatesi perlomeno in termini di linguaggio sperimentale nel periodo di Lacy, quando passò dentro musica elettronica viva che girava insomma in quel di Roma, anche lì appunto una sperimentazione sonora sul suono, in questo caso il suono elettroacustico, se vogliamo, per Balestrini era il suono appunto dell'onomatopea, oppure della parola, come abbiamo sentito in Mille Una di Stratus. È proprio lì che si fa palese, si fa chiarissimo la trasformazione appunto e la combinazione differente, anche il rivolgimento della stessa parola con appunto significati che vanno a esplodere o che vanno a esplorare altre aree, un po' come per finire questo breve omaggio a Nanni Balestrini, ma come dire, certe cose attraversano sempre 451 dall'inizio probabilmente alla fine, non lo so, però senza parlare insomma di finalismi che insomma non ci interessano questa sera, anche se poi purtroppo due giorni fa appunto se n'è andato proprio Nanni Balestrini. Beh, prendiamo un esempio di quello che può essere appunto la ricombinazione, anzi senza parlare di combinazione, che magari sia tanto di postmoderno, proprio di altra significazione, partendo proprio dall'esperimento di appunto Balestrini, in questo caso Alessandra Perna e Giovanni Succi di Bachi da Pietra, la penna e la perna, anzi scusate, Alessandra Perna e dei Luminal, e omaggiano in maniera piuttosto creativa la appunto la parola e la ricombinazione come metodologia aperta di appunto Nanni Balestrini. E andiamo appunto per finire, finiamo con 351, con questo omaggio appunto a Balestrini, e proprio con questo ma anche abbastanza recente appunto esperimento su quello che può essere la combinazione altra, partendo appunto dal materiale di Balestrini. Max Macchia vi saluta qua, vi dà un prossimo appuntamento per mercoledì prossimo, oppure sul blog, insomma, 451 frammentisonori.noblogs.org. Tra l'altro ricordo anche con Eliseo Scarpa di averlo dato, insomma, questo blog, questo indirizzo proprio a Nanni Balestrini, e voglio insomma così ricordarmelo, così vivo e vegeto appunto dentro un'università occupata ancora a sperimentare indomito con questa forza propulsiva incredibile. Ciao a Nanni, ciao a voi, appunto da Max Macchia per 451 frammenti sonori. Ciao. Bisogna andarsene da qui, avvitare il mondo intero, non frammenti separati del mondo. Il mondo reale non è un oggetto, è un processo. Qualsiasi cosa causa ogni altra cosa. Le cose devono entrare in noi. L'istante è sempre una rinascita. Cambiamento. Le cose vanno e vengono. Ogni ripetizione deve provocare un'esperienza del tutto nuova. È soprattutto questione di cambiamento. L'indeterminazione è il salto nella non linearità e nell'abbondanza. Ciò che avviene accade ovunque e contemporaneamente, poiché tutto già comunica. Perché voler comunicare? Perché tutto possa accadere. Siamo sempre più impazienti e diventeremo sempre più voraci. Ci sono tante tante cose che possono andare insieme. Strutture e materiale possono essere legati oppure opporsi. Quello che mi interessa non sono le regole, ma il fatto che le regole cambino. Il mondo non è. Diventa, si muove, cambia. Le vecchie strutture del potere e del profitto stanno morendo. Quello che mi interessa non sono le regole, ma il fatto che le regole cambino. Ci sono tante e tante cose che possono andare insieme senza sapere quale sarà il risultato.